la versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori del 24, 16:31 primi e 8 secondi. Buongiorno, Oscar Giannino vi saluta e vi ringrazia per l'ascolto in diretta o in podcast da una infernalmente calda Roma. Ma domani si torna a Milano se di vuole. Ricorda l'indirizzo della versione di Oscar che ho cercato 24.it e vi dice subito di che cosa parliamo. Lo spunto è la relazione annuale presentata ieri dall'INPS, dal presidente dell'INPS Tito Boeri. Non parliamo di, volutamente, vi spiego perché, di ciò che avete trovato su tutti i giornali oggi, cioè la famosa simulazione in base alla quale tutti i giornali hanno titolato: se rinunciamo agli immigrati perdiamo 38 miliardi di euro di contributi da parte degli immigrati, una simulazione di qui al 2040. Chi ha letto oggi il Messaggero ha trovato un mio editoriale su questo, ma non è il punto. No, parliamo di un altro tema, secondo me altrettanto, no, più centrale nel nostro paese, degli squilibri intergenerazionali. Mille volte ne ho parlato, l'Italia non per giovani. Ricordate le rilevazioni della Banca d'Italia che ci fanno vedere come negli ultimi 15 anni si sia terrificantemente aggravato il gap a danno delle famiglie i cui capi famiglia sono giovani e sotto i 35 anni, sia in termini di reddito che in termini di patrimonio rispetto a chi ne ha più di 65. Ieri nuove cifre nella relazione annuale dell'INPS a proposito del fatto che, come è ovvio, l'istituto eroga prestazioni soprattutto agli anziani. Il punto quindi è quello della iniquità tra generazioni, che manca come elemento centrale dell'agenda pubblica in un paese che ha una curva demografica, lo sappiamo, ipercompromessa, perché abbiamo il fisco più ostile alla famiglia e ai giovani di tutti i paesi OCSE, perché anche in questi anni abbiamo concentrato i famosi 50 miliardi di bonus in chi aveva comunque soglie di reddito più elevato, medio-bassa, a cominciare da quelle per gli 80 euro di bonus, e non abbiamo pensato a chi sta peggio, appunto ai giovani e agli incapienti. Allora, ora vi dico subito perché non mi convince la simulazione su gli immigrati, ma l'ospite e il tema della puntata è invece: cerchiamo di fare qualche cosa per rimettere al centro dell'agenda pubblica esattamente la questione dell'iniquità tra generazioni a danno dei giovani nel nostro paese. E il nostro ospite ha un'idea, ha avanzato una proposta, secondo me meritoria, poi passerà, però almeno è uno sforzo concreto per tentare di attirare l'attenzione pubblica della destra, della sinistra, di tutto il sistema politico italiano su un dato di fondo di un paese, ripeto, non per giovani, significa, come ricordavamo in questi giorni, anzi ieri, a proposito del un altro tema, quello del fatto di avere oramai diplomati e laureati, i primi oltre il 50%, i secondi oltre il 40% fino a 35 anni tra quelli che sono occupati o in occupazioni con qualifiche gravemente al di sotto dei loro titoli di studio. Ne parlavamo ieri e lì abbiamo citato anche il dato del brain drain, cioè della fuga di cervelli, aumentata del 100% praticamente negli ultimi 10 anni, e con l'85% di laureati che utilizzano la loro formazione altrove. Ecco, un inciso, perché non mi convince molto il modo in cui è stata fatta quella formulazione sugli immigrati. Quella simulazione sugli immigrati è correttissima, tant'è che io l'ho twittata subito dicendo: questi sono numeri inoppugnabili. C'ha un difetto però, e il difetto è stato il modo in cui è stata riversata nella comunicazione pubblica. Perché è inoppugnabile? Perché quello è il bilancio attuariale, cioè previsto di qua al 2040, stante il ritmo di aumento degli occupati stranieri, immigrati quindi, ma occupati regolari nel nostro paese. È inoppugnabile che il bilancio del dare dell'avere dell'INPS è un bilancio in cui il loro contributo, cioè dei lavoratori regolari immigrati nel nostro paese, è un saldo positivo, quindi redistribuito, poiché siamo in un sistema previdenziale contributivo, ma a ripartizione, quindi con contributi di chi lavora regolarmente ogni mese, si pagano le pensioni in pagamento ogni mese, ma con un saldo positivo nei termini esattamente in cui quella simulazione è stata riportata, cioè 38 miliardi di euro. Però è una simulazione che ha due difetti, se vogliamo farla calare, come è stato immediatamente fatto sul dibattito aperto su non chiudiamo i porti italiani, non chiudiamo i porti italiani. Primo, si applica appunto alla platea dei lavoratori stranieri regolari nel nostro paese, mentre la questione di chiudere o meno i porti e far cambiare le regole all'Europa si applica a chi viene nel nostro paese salvato nel Mediterraneo, non fa parte certo delle forze di lavoro regolari. E il problema è che le strutture di gestione, in cui attualmente più di 200.000 di loro sono praticamente sature, a questi ritmi di arrivi non ce la fanno a reggere, ma soprattutto hanno un conto dal dare e dall'avere, cioè dei costi completamente diverso da quello dell'INPS e del sistema di lavoro e prestazioni previdenziali o prestazioni assistenziali a chi ha perso il reddito. Quindi questo è il primo difetto di quella simulazione, perché la premessa, se dovessimo chiudere la porta agli immigrati, era sbagliata, e infatti tutti l'hanno applicata alla questione dell'immigrazione non regolare, ma dell'applicazione ai flussi del Mediterraneo. No, errore, e questo Tito Boeri, che ha sensibilità politica, lo sapeva perfettamente. Seconda questione, è comunque una simulazione a fermo, perché è fatta immaginando che continui il tasso di aumento degli occupati immigrati sul totale, ma non ipotizza l'idea che invece, come secondo me sarebbe giusto e doveroso fare, bisogna operare perché aumenti il tasso di partecipazione al mercato del lavoro e l'occupazione sia per i giovani che per le donne. Ecco, nel qual caso cambia tutto, cambiano anche i conti del dare e dell'avere. Ma ripeto, questo è solo per spiegarvi, perché molti mi hanno scritto dicendo: ma scusa, tu ieri aveva subito quei numeri, sono inoppugnabili, poi oggi sul Messaggero critichi. No, io quei numeri sono inoppugnabili. Sul Messaggero spiego però che non si applicano alla questione dei flussi e del cambio di regole che bisogna chiedere e ottenere, perché non sia l'Italia l'unico porto di salvezza da tutto il Mediterraneo. Ecco, spiegato questo, però il problema è l'ingiustizia di cui soffrono i giovani. Allora, il nostro ospite è il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, Andrea Mazziotti. E Andrea Mazziotti, su questo, postando sul suo sito, che vi invito a consultare per approfondimento, troverete appunto i numeri approfonditi dello sbilancio tra generazioni nei conti del welfare e della previdenza pubblica. Trovate anche una testimonianza che adesso poi vi facciamo anche sentire, ma lui avanza una proposta. Grazie di essere con noi, Andrea Mazziotti. Grazie a voi. Anche solidarietà, perché so che suo padre è recentissimamente scomparso. Allora, posso chiederle un secondo di commentare queste parole? Sono parole pronunciate appunto da Tito Boeri due settimane fa, il 17 di giugno. C'è una concentrazione fortissima della spesa sociale, circa l'80% della spesa è al di sopra di 65 anni di età. Questo si spiega con la importanza del sistema pensionistico, del nostro sistema di protezione sociale. Noi abbiamo, per comparazione internazionale, una spesa sociale che è molto più squilibrata a favore delle pensioni che altri paesi dell'area OCSE, ma non solo. Si spiega anche col fatto che manca in Italia uno strumento di contrasto alla povertà che agisca al di sotto della soglia dei 65 anni di età. Allora, riepilogava solo alcune delle cifre, tante altre ne trovate nel volume più ampio che accompagna la relazione annuale di ieri svolta dal presidente dell'INPS Tito Boeri. Allora, di qui e da tutti questi dati che testimoniano l'ingiustizia generazionale, che idea le è venuto, Mazziotti? Ma un'idea credo semplice ma importante. Io ho presentato una proposta di legge costituzionale per introdurre nell'attuale norma sulle pensioni della Costituzione, che è l'articolo 38, il principio per il quale le prestazioni pensionistiche devono essere improntate ai principi di equità, di ragionevolezza e di non discriminazione tra le generazioni. Sembra un'ovvietà. In realtà non lo è, nel senso che il concetto di equità indica un concetto di bilanciamento di interessi diversi, e non sempre questo avviene. Quello di ragionevolezza la Corte Costituzionale l'ha usato molte volte, ma diciamo è utile esplicitarlo. Quello di non discriminazione tra le generazioni, a mio modo di vedere, è necessario, perché non sempre nelle valutazioni che vengono fatte in materia pensionistica si guarda alle generazioni non future, ma anche a solo a quelli che stanno pagando i contributi oggi. E lo dimostra il fatto, l'indicazione che ci ha dato il presidente Boeri in audizione, una delle più significative, che credo sia anche indicativa di come la politica tende a infischiarsene di quello che avviene nel lungo periodo, è che quando si fa una normativa in materia pensionistica all'INPS vengono richiesti dati, stime e previsioni a 10 anni. Se io ho iniziato a pagare i contributi a 25 anni perché ho avuto la fortuna di trovare un lavoro, a 10 anni ne avrò 35 e sarò ben lontano dalla pensione. Di quello che succede alla mia pensione dopo il legislatore non si cura. Allora, nel frattempo leggo ai nostri ascoltatori, sono dichiarazioni, questi sono testi, lanci dell'ANSA, parla il presidente in audizione alla Camera dell'Istat, Giorgio Alleva, si parla di occupazione atipica, cioè di precariato, e Alleva fa notare anche qui in relazione all'età e alle competenze accumulate nella più giovane età. Leggo, l'occupazione atipica al primo lavoro è diffusa anche per i titoli di studio secondario, superiore e universitario, anzi cresce all'aumentare del titolo di studio, essendo pari al 21,2% per chi ha concluso la scuola dell'obbligo, al 35,4% per chi ha conseguito il titolo di studio universitario. Insomma, almeno all'inizio della carriera di lavoro, il lavoro precario interessa più i laureati, ovvero chi ha accumulato maggiori competenze, ed è in questa fascia giovanile che si concentra il lavoro meno continuativo dal punto di vista contributivo, quindi lavori retribuiti meno e che durano meno, per così dire. Allora, se capisco bene, Mazzeotti, tentiamo a chi in ascolto dire vabbè, una proposta di emendamento della Costituzione che parla di equità per i giovani, però attenzione, lo scopo di un'eventuale modifica costituzionale poi non passerà mai, va bene, però l'idea è abbiamo bisogno di immettere nella gerarchia delle fonti normative italiane, nella più alta fonte, cioè nella Costituzione, un richiamo a un principio esplicito su cui far leva, cioè, mi corregga se sbaglio, su cui eventualmente incardinare impugnative a un sistema previdenziale che con i versamenti, per esempio, di questi laureati a cui diamo il lavoro più discontinuo, minore anzianità contributiva e con meno versamenti, perché ovviamente le retribuzioni sono più basse, e a loro che chiediamo l'onere in un sistema a ripartizione di contribuire mese per mese a pagare le pensioni di chi magari, fortuna loro, per l'anno d'inizio che avevano della loro attività lavorativa, sono andati pre-riforma Dini con un trattamento sempre a ripartizione ma interamente retributivo e non contributivo. È corretto che lo scopo è quello soprattutto di consentire di inaugurare un nuovo filone della giurisprudenza costituzionale, del quale il politico dovrebbe a quel punto temere l'effetto, se lo scrivessimo così, o no? Sì, direi che ancora prima che inaugurare un filone di giurisprudenza, lo scopo è quello di far sì che il legislatore quando fa una legge in materia di pensioni si preoccupi che quel filone non parta, cioè cerchi di fare delle leggi che sono conformi a questo principio, perché il punto è che oggi per ragioni elettorali e anche di distacco un po' dei giovani dalla politica, questo tema è stato sempre trascurato a favore delle generazioni che hanno un lavoro e che hanno già una pensione. Io non ho nessuna intenzione, la mia campagna non è una campagna di taglio delle pensioni, però oggi certo. Ad esempio in audizione il professor Rosina, che è un appassionato del tema, un demografo, professore di demografia esperto, che ha lanciato il progetto Giovani, ci ha raccontato che da degli studi da loro fatti, da dei sondaggi, da delle inchieste, il primo obiettivo che la politica e i sindacati dovrebbero avere secondo i giovani è occuparsi della loro previdenza. Esatto. Ora, se la politica sa questo e lo sanno perché li leggono questi sondaggi e non interviene, è anche perché purtroppo nei nostri giovani c'è una forma di rassegnazione per cui la politica è tutta cattiva, sono tutti ladri, sono tutti cattivi e non fanno niente, e quindi c'è un distacco. Purtroppo il distacco, questo io lo dico sempre, rivolto alle giovani generazioni, porta al fatto che si cade nell'irrilevanza e la politica si occupa di chi vota. Questo è il problema più grave, e mi lascio aggiungere solo una cosa, certo. È anche significativo il fatto che a questa legge, che è stata firmata da oltre 50 parlamentari, tra cui molti parlamentari del Partito Democratico, penso a Richetti, a Pinagli e a tanti altri, Lascani che è molto giovane e che è sensibile al tema, da Forza Italia, da Fratelli d'Italia che oggi è scappata, però, nel senso che Fratelli d'Italia, l'onorevole Meloni, che ha sempre fatto le battaglie per i giovani, e il suo collega che avevano firmato la legge, hanno ritirato la firma dicendo che potrebbe prestarsi a interpretazioni finalizzate al taglio delle pensioni e quindi ritirano la firma. Sono rimasto un po' allibito, in realtà è partita una campagna di alcune organizzazioni di pensionati che hanno fatto un mail bombing dicendo che si vogliono tagliare le loro pensioni, cosa non vera, qui si vogliono tutelare quelle dei giovani, che è un concetto diverso. Sì, direi di sì. E sono rimasto molto male perché l'onorevole Meloni parla e fa proclami sulla sua attenzione ai giovani, però appena arrivano però le iniziative sparisce. Adesso questa è l'espressione diretta di come alla fine in realtà gli interventi, se uno va a vedere la legge di bilancio, ci sono 7 miliardi e sono tutti per prepensionare in una forma o nell'altra, e il sottostante è raccontare che questo serve a liberare posti di lavoro ai giovani, quando ne abbiamo parlato mille volte, la letteratura accumulata nei diversi sistemi del lavoro con diverse normative, con l'evidenza dell'effetto sostituzione non c'è, sottolineo mille volte, non c'è negli Stati Uniti, non c'è nell'Europa continentale, non c'è, eppure questo è ciò che viene dichiarato. Fatto sta che poi alla fine noi stiamo sempre aprendo una finestra sempre più ampia tra le concessioni che vengono fatte, l'app e l'app social e le mille salvaguardie sui presunti esodati, perché poi le ultime non sono affatto esodati, però il punto vero è che questi portano a casa e questi ottengono sempre in un sistema di ripartizione, si aggrava l'onere alla spalla dei più giovani che col cavolo avranno queste condizioni. Però torniamo dopo un minuto di traffico sul fare un paio di esempi concreti di misure di cui si sta parlando, che in teoria vengono ancora una volta presentate come favorevoli a riequilibrare l'ingiustizia tra generazioni. Traffico. La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in studio in diretta, ospite Andrea Mazziotti, il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati. Tema l'iniquità sempre più grave tra generazioni del nostro paese, il welfare si concentra sugli anziani, i giovani stanno accumulando percentuali sempre più elevate a loro svantaggio sulla distribuzione del reddito e del patrimonio e i relativi stock pro capite e nelle famiglie guidate da giovani sempre meno, tra l'altro, rispetto a quelle da anziani. L'idea, l'onorevole Mazziotti ve l'ha spiegata, una riforma articolo 38 della Costituzione, quello che riguarda la previdenza, per introdurre esplicitamente il principio di equità e proporzione. Negli interventi su questa materia gli interessi dei giovani vanno tutelati, e questo significa una proiezione pluridecennale degli interventi per vederne gli effetti attuariali, e quindi in un sistema di ripartizioni chi si addossa il costo di che cosa che viene dato a chi altri. Però le faccio tre esempi, onorevole Mazziotti, per capire come la pensa. Non è un mistero che nella prossima legge di bilancio l'attuale governo prometta un intervento su cuneo fiscale, soprattutto per i giovani, dicono. Tito Boeri ieri nella sua relazione ha parlato di contributi figurativi per i più giovani, una certa proporzione. Altri, tra cui anche Tito Boeri in passato, avevano immaginato o proposto, sulla voce.info trovate tracce, cari ascoltatori, di questo dibattito, un intervento di minore imposizione, questa volta imposizione sui redditi o per genere, perché c'è anche il problema di una maggiore occupazione femminile da tutelare, o per età. Io ho sempre obiettato alla prima e alla seconda. Contributi figurativi sono a carico della fiscalità generale, non mi piace. Secondo, non è ipotizzabile, secondo me, per Costituzione, intervenire in differenziazioni di reddito a parità di imponibile dovute al genere o all'età. Cosa diversa è invece farlo in maniera strutturale per i contributi. I contributi servono a pagare controprestazioni, e la mia idea è sempre stata, invece di tenere le aliquote uguali e magari di anno in anno, essendo poi riconoscenti e grati ai governi che lo confermano, però bisogna dargli il voto in cambio, avere la figuratività di una certa quota di proporzione dei contributi, perché non accettare l'idea di graduare i contributi in termini inversi all'anzianità contributiva, cioè il montante di ciò che si versa nell'arco della propria vita professionale resta uguale, il contributo nell'arco della propria vita di lavoro alla ripartizione, poiché siamo in un sistema a ripartizione dove il contributivo non è a capitalizzazione individuale, anche se questo molti di voi non lo capiscono, credono di avere il tesoretto dei propri contributi versati. No, voi pagate tutti i mesi con i vostri contributi le persone agli altri, ma anche il montante complessivo di solidarietà, quindi al sistema di ripartizione, resterebbe uguale. Semplicemente però si chiederebbe meno a chi ha minore anzianità contributiva, cioè entra più tardi nel mercato del lavoro, e meno a chi ha minore intensità contributiva nell'unità di tempo, per poi farle gradualmente salire nel tempo. Rivoluzione copernicana, questo non c'è dubbio. Credo che non incapperebbe nelle obiezioni di costituzionalità, perché i contributi non sono del tutto assimilabili al fisco in termini generali, come presupposto costituzionale, capacità contributiva per la natura di controprestazione dei contributi, a fronte invece della fiscalità generale, che come sapete non ha il termine del beneficio individuale in cambio. Però cosa pensa di tutte queste proposte Andrea Mazziotti, che avanza questa proposta invece di modifica costituzionale, che a me piace molto? Lei che pensa? Ma io penso, allora, io volutamente in questo periodo non mi sono espresso molto sulle soluzioni concrete, perché credo che la cosa fondamentale sia che quelle soluzioni concrete siano attuabili senza una guerra costituzionale, e quindi che sia possibile intervenire per eliminare le storture inserendo una norma in Costituzione. Poi lei avrà un approccio magari più fiscale, più tax and spend, se governa qualcuno che ha quelle idee, che può fiscalizzare alcuni interventi, ne avrà uno più liberista in un'altra direzione. Io vorrei che però questo tema fosse al centro dell'agenda di tutti. E quindi se proprio per questo io ho sempre detto, il tema qui non è tagliare le pensioni, è quello di dire che è obbligatorio occuparsi del futuro. Oggi il presidente dell'Istat ci ha detto una cosa abbastanza impressionante, e cioè che quello che si chiama tasso di sostituzione netto, sì, cioè quello che indica quanto del reddito di ciascun lavoratore, quanto il reddito si modifica a seguito del pensionamento, questo tasso è stato pari all'82, virgola 8% dell'ultima retribuzione nel 2010. Nel 2060, a parità di requisiti contributivi, sarà del 72,5%, cioè 10 punti di meno, a parità di tutto. Allora, in questo tipo di contesto esiste un'incostituzionalità di base, di principio, nel fatto che si possa legiferare senza occuparsene, almeno non dico con quelli, oggi si è parlato di chi andrà in pensione, di chi pagherà i contributi domani, perché chi pagherà i contributi tra 5 generazioni vedremo cosa succederà, ma almeno nei confronti di chi paga i contributi oggi. Cioè il paradosso è quello. Allora, premesso che a me ad esempio la sua ipotesi sui contributi sembra un'ipotesi probabilmente percorribile già adesso, anche se i ricorsi ci sarebbero lo stesso, perché poi i ricorsi su questi temi arrivano comunque, io credo che la cosa fondamentale sia quella di avere uno strumento che dica: guardate ragazzi, che è vero che i contributi non sono tasse, ma sono una forma, diciamo, di fiscalità speciale finalizzata a una prestazione, e quindi non si può imporre una contribuzione a dei ragazzi dicendogli: guardate, voi oggi date i contributi a delle persone che prendono l'82,8% di pensione sullo stipendio, poi lo fate tranquilli, alla fine voi prendete il 72,5%. È una cosa che se uno la racconta a un ragazzino, perché onorevole Mazziotti, in cambio altrimenti dovremmo accettare l'idea di un sistema veramente contributivo a capitalizzazione, cioè ognuno si porta dietro solo i contributi che ha versato, investiti in un certo modo. Questo però significa rinunciare a molta solidarietà, questo lo dico subito, e quindi non passerà mai. Intanto ottima idea, congratulazioni da parte mia ad Andrea Mazziotti per il suo tentativo di rimettere questa questione al centro dell'agenda pubblica. Appuntamento domani alle 8:15 come sempre, attenti alle 2 con me Alessandro Milan.